Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento insieme all'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Abbiamo con noi il presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo, benvenuto. Ciao Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. E il caldo si fa sentire, sta mettendo anche un po' in crisi l'Italia, però con il caldo di solito si pensa anche alle vacanze. Sì Francesco, si pensa alle vacanze, anche quest'anno l'Adico tramite lo sportello Vacanze Informata ha voluto fare la consueta indagine per capire un po' gli orientamenti e le preferenze dei nostri amici e vedere dove vogliono appunto recarsi in vacanza in quest'anno. E il dato sorprendente e anche positivo è che insomma la voglia di vacanza è aumentata del 4%, cioè praticamente rispetto all'anno scorso ci sono più persone che vanno in vacanza, anche se si mantiene come periodo prescelto una settimana con un dato del 64%. Carlo, allora dacci altri dati su questa indagine. L'importo destinato per il nucleo familiare è compreso tra i 1.300 e i 1.600 euro. Normalmente le persone preferiscono la prenotazione online o last minute, in quanto solo il 18% prenota tramite agenzia. È vero che chi prenota tramite agenzia generalmente lo fa perché va all'estero, e qua siamo infatti al 70% di quest'ultimi. Tra le mete invece preferite dagli italiani, per chi invece ha deciso di rimanere in Italia, e sono il 68%, abbiamo prima la Puglia, seconda la Sicilia, terza la Sardegna e l'ultima il Veneto. Benissimo, quindi ci sono comunque delle regioni che hanno una posizione migliore rispetto al quarto posto del Veneto, e poi penso si va anche sulle regioni montane, no? Sì, allora per quanto riguarda la scelta abbiamo il 57% mare, 21% montagna, 11% città d'arte, 8% crociera, 3% alto. Per chi invece decide di andare, di rimanere in Europa, perché parliamo insomma di paese insomma qua vicino a noi, c'è come prima scelta Spagna, seconda Croazia, terza Grecia. Per chi invece va all'estero, primo posto l'Indonesia, la seconda scelta è la Thailandia. Invece per quanto riguarda le sistemazioni, il 37% preferisce l'albergo, il 18% le pensioni, il 14% gli appartamenti, il 12% bed and breakfast, il 9% agriturismo e il 4% il campeggio. Ecco, io immagino che in questo influisce se una famiglia ha bambini o no, in questa scelta dell'alloggio. Sì, poi c'era un altro dato alto che non ho voluto commentare, ma sostanzialmente come hai detto tu preferisce i parenti, addirittura qualcuno opta per lo scambio delle abitazioni e soluzioni come il camper a noleggio. Comunque è un quadro abbastanza completo che comunque tutto sommato conferma la voglia e anche un trend in miglioramento rispetto all'anno scorso. Per quanto riguarda i mezzi che preferiscono utilizzare per gli spostamenti, abbiamo l'auto al primo posto, il secondo l'aereo e l'ultimo il treno. E vabbè, mi sembra anche una cosa abbastanza ovvia questa della scelta del mezzo per spostarsi per le vacanze. Beh, Carlo, quindi sostanzialmente un miglioramento nei dati di afflusso alle vacanze, forse l'economia gira un po' meglio? Forse gira meglio, forse complice bel tempo, forse anche qualche iniezione di buona fiducia. Tante cose messe assieme aiutano. Certamente, ecco, parliamo comunque di un 68% di persone che vanno in vacanza ma che hanno scelto una settimana, quindi capiamo che ormai anche le abitudini e l'organizzare la vacanza rispetto a qualche anno fa sostanzialmente è cambiata, perché se non si rinuncia comunque la si limita. Ed è anche vero che rispetto a periodi come una volta che erano agosto, invece adesso risultano più diluite tra giugno e settembre, a volte anche per cercare delle soluzioni che risparmiano. La cosa che sorprende è come la maggior parte, quasi tutti praticamente, utilizzano internet come strumento di prenotazione o di comparazione e come le agenzie vengono generalmente utilizzate solamente quando si opta per andare all'estero. Ecco, ricordiamo che è bene insomma scegliere con attenzione, con cura, dove prenotare. Se per caso incappate in qualche problema, l'Adico ha un ufficio che è Vacanza Informata, che potete contattare. www.associazionedifesaconsumatori.it è il sito. Grazie al presidente Carlo Garofolini, ci sentiamo tra qualche giorno. Sì, io ringrazio te Francesco, ricordo agli ascoltatori che lo sportello Vacanza Informata non va in vacanza, quindi rientriamo da quelle pochissime percentuali che continueranno a lavorare, e approfitto per salutare tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.